message, però pronti, ho ricevuto. Per sentire. Gian Maria deve darsi il drummillo. Oh, deve darsi il sito in bicicletta. Ma che? Sta cucendo, Gian Maria! Io non lo vedo da qua, capito? Manco io lo vengo dai occhi. Sarà drummido, sarà. Mai! Da da va, no, non ti rispondi, no. Allora, vediamo chi c'è, vediamo chi c'è. Vabbè, qua non ci interessa, vediamo chi c'è. 27, vediamo chi c'è. E chissà chi è. Chi sarò io? I nomi! Ciao Mari! Buonasera a te! E buonasera al brutto della Pelosi! Tu pure lo conosci a te. Ciao Mari, bella quella bicicletta, Bella, Ma fatta, Oh, non è arrivata. Ah, non è arrivata. Ah, io mi sapevo che... ma perché arrivava sabato o venerdì? No, dovrebbe arrivare domani o dopodomani. Beh, così. Quanto mai arrivi venerdì, se no l'avevi manco di nato ancora. Ciao Mari. Sono stati compresi un accidente, da frusci, fruscetti. Adesso come è fatto a come ha fatto a arrivare venerdì se ancora la dovevi ordinare? Ma lo capisci tutto? Alle 30 uno dei microfoni che fa vedere dall'alto. Cari dai, cazzo. Ho già stato ricavato a figlio. Attacchi il microfono mentre ti do io di gas. Ma che c'è sempre attacco il microfono? Aspetta. Cosa state dicendo? Tutti e due. Oh, avanza, va tutto a zero, boh. Vabbè, ma allora, cazzo, per carità, tutta push, frisciti, cazzo. Boh. Diglielo tu. Ma lui non mi ha capito a me cosa stavo dicendo. Sembravi dentro una tromba d'ascensore, fa vedere. Ah, non è che fosse come stavate, come se stava facendo, invece Vittorio, non so. Infatti forse c'aveva il ricevitore a manetta e non si sentiva la voce. Come tu giuri, cos'è più fruggente? Vabbè. Capito mi hai? Se parlate in due non capisco. Senti, senti. Anche io ce l'ho acceso. Li sento da qua, li sento nel computer. Chiamami! Regalate il computer, cazzo, almeno li sento anch'io. Computer a te ti manca, infatti. Se mi ha detto che viravi il computer acceso. Ah, adesso non ho computer acceso. Ma ne voglio un altro io, questo non mi basta. Devo fare la collezione di computer adesso. Certo. Buh, buh. È bello! Insomma, che ancora non mi hanno risposto. Ancora non mi hanno riposo. Eia. Ma ci piove, via, ci piove. Ormai non si capisce più quando smette, quando ripresta. Ah, sta bello, no, finisce qui. Torna a scarica, stai uscendo lui. A scarica, sta, deve essere il ricevitore, forse. Guarda a vedere. Va bene. E giù. Il ricevitore, non è a scarica, perché è stato abbassato il volume. E lui. Comunque, un 10 minuti fa non stava piovendo. Perché ho sceso il cane e non stava piovendo. Perché ha visto che dovevo scendere il cane e ha smesso di quella zona, capito? Da qua stava piovendo, invece a quella zona è scomparse le nuvole, sono scomparse. E ha detto, per un po' non piovolire, capito? No, a noi così no. niente era aria. Anche domani, ce l'ha anche domani, ragazzi, sta se c'è fino a domenica. Ce l'abbiamo anche due paesi, lei va canto, non è arrigata. A Cagliari ci hanno andato tutto, lo hai visto, tutto allagato. A Castanella Curva di Castel Sardo ne farà un monte. Io così era ora. Un altro me. Ottimo! Dimmi tutto. E te, bello semi. Trompo, trompo, trompo, trompo, trompo. Ora tutta fruscio, fruscette, cazzo, boh, non se ne capisce più questi cibi, cazzo, perché sta, bisogna accantonarli dalla lista, to. Sì, sì. Bisogna far così, bisogna fare, io non so, bisogna essere tutti calpestrati. Ma se per male sto scendo io, boh. Va bene, male c'è un senso. Ah, senti due, fuscia, fuscia. Oh, ma una cosa, guarda, boh. Non lo posso più da vita, guarda. Adesso vai bene. No, quando lasci il microfono si sente tra tra, brum, adesso la campanella. Sì, la campanella del coso, aspetta un secondo, cambia il microfono, va. Bravo, mi hai capito. Vero Gio Mario? Va, per carità, ragazzi. Ah, la valigia, però la valigia, microfoni, uno sente la cosa giù. No, ma io sono andato là, mi, a San Marcanda. Apri i dezzi, apri. C'è una signora e un signore, ma ne aveva due di apparati, però uno anda e l'altro non torna. Uno era piccolino, ma così così, omologato, però era solo in AM. Oh, già l'hai trovata allora. Un dolce fatto, ma cosa c'è di bello lì? C'ha parecchia roba, c'ha, però roba antica. Ah, allora roba antica, meglio la sala UDE. Però lui. Ma cosa stai cercando, perché so? Un omologato stavo cercando, che questo inter che c'ho io è andato a farsi il benedetto. Ma stava in assemblea. Infatti, appena va giù qualche spicciolo, me lo ordino. Ce n'è uno bello, quello va bene, che attacca in macchina, piccolino, quello che ti ho detto, to, che è un bombo, è bellino quello lì, dai. Che ormai? Ah, oui. Ma tu non ne stai prendendo uno, quello che c'è giù, di omologato. Ah, ma quello omologato lo lascio io, certo. Non gli do l'omologato a Torre. Ma se l'avevamo messo anche in vendita, cosa stai dicendo? Mica omologati tu ne hai tre o quattro. Vabbè, ma non me li lascio, cazzo. Poi quelli lì sono nuovi, nuovi, non li piace a lui, li piace usati. E allora tolgo dalla vendita quello che mi fa mettere le cose e poi non le vuoi più vendere. Ma insomma. Appunto, Ma metti gli avvisi. Ma è un Texas, non l'avevo messo per te. Dimmelo quando poi cambi idea, così io li tolgo. No, il Texas, toglielo, non lo so, cazzo. Ne abbiamo parlato l'altro giorno, toglielo che non ho. Però me lo lascio. Mica c'era i 497 anche tu, mio gatto. Per quello l'avevamo messo in Texas. No, i Galaxy va bene, lasciali quei Galaxy, tutti e due, dico, cosa ne faccio, non faccio niente più, boh. Ah, fate tutto, boh. Cosa ne faccio, non faccio niente, e poi ancora se mi fa come voglio io, li do, se no non ne li do. Fai bene, come ascolti adesso Giomarì, a posto tutto, sì. Cazzo, hai fatto male, se l'hai preso quello mio, è nuovo nuovo il mio, Miluca lo conosce. Peccato vabbè. Dai, dentro la cazzola. Guarda, non me ne frega niente a me 250 euro, dai. Non sono andata a vuota, corretto. È troppo caro, quindi, senza offesa. Se l'avessi dato 200 euro me l'avrei preso. Ho preso quello lì. L'ho sistemato e l'ho già anche fatto fuori, non so l'altro. 200 euro. Stamattina immediatamente. Un cibo di sassa si è fatto via. Ma adesso ce l'hai, che non ti interessa adesso? No, non hai capito, no, io sto parlando, è stato un ecco, l'ho fatto fuori, io sto usando adesso gli AESO, hai capito? Quindi il coso, l'ho già fatto fuori, mi, quell'apparecchio là. Stamattina siamo venuti e siamo passati via. C'è un 50 euro come lo stavo dando io. Prenditi il mio allora, che cazzo di garantito il mio. No, 250 euro, ma stai scherzando, no, non è stato visto. Lo sai come sono fatto io. 200 euro sì, in contante, questo dice. Di meno, cioè di più no. Se lo vuoi così, se lo pazienza Giovanni, non cambia niente, non è niente. Amici come prima. 200 euro, lei sta bene 200 euro. Se vuoi che ti ripiglio è stato messo in contante. In contante subito sono altri. Ormai l'altro l'ho già venduto, sono 50 euro stamattina, quello che avevo ieri sera, è perfetto, non se ne è lamentato per niente. Ti ho fatto provare, l'ha buttato subito, ma devo dire subito, immediatamente. Ah, dimmi. Ah, ho capito, hai comprato un Saturneco. Tempo una settimana te l'hai già venduto, ne vuoi comprare un altro e fra una due giorni non te lo rivendi. No, non hai capito, no. È lui che me lo vuole vendere, che me lo vuole vendere, no io. Allora io ho già ho preso Saturneco, l'ho comprato, l'ho sistemato, l'ho pulito bene, eccetera, eccetera, e me l'ho venduto, 200 euro. Quindi tutto lì. E io ho detto infatti a Gio Maria, ho detto 250, detto quello là non sta bene. Se lo vendo 200 euro, una cosa cambia, cioè le cose cambiano. Non è che puoi vendere 250, no? Ma se senza. E dove chi te lo compra? E mio non c'è bisogno di pulirlo e di metterlo a posto. Mio è perfetto in tutto, garantito e in casa, diglielo lui. E quello a quanto ho capito io, allora quello là l'ha comprato a poco, l'ha messo a posto e se l'ha rivenduto, se ne vuole comprare un altro con i soldi che ha fatto. E Antonello, questo suo è quello, non è che guarda su Facebook, guarda dove vuoi, se trovi un Saturneco a 150 euro, 200 euro come lo vuoi tu, mi sembra molto strano trovarli, questo suo è quello, 250, c'è gente che gli dà 450, 350, allora il prezzo di mercato è 250, poi se c'è gente che lo vende a meno, se hai la fortuna di che funziona bene, se no c'è qualcosa. Sì, guarda, per quello, quel prezzo lì mi piglio molto via, sono stato già in cena e fa bene. Non serve male manco la candela. Io l'avevo venduto a Natalino, 100 euro, il mio era nuovo. Devo dire, non c'aveva nulla. Quindi figurati tu, no, non è quella valutazione, insomma a parte di dico stampo, quindi non ti puoi fidare. A un certo punto, quindi lascia perdere. Io ho 50 euro, l'ho preso, c'ho 50 euro, l'ho sistemato e mi sono venduto 170, ho fatto 20 euro di sgoppo e sono stato tranquillo, a posto e non si è neanche lamentato. E appunto, non vedo l'affare, cioè tu l'hai comprato 150, l'hai venduto 170, adesso devo comprare un altro per 200. Non capisco, Antonio, forse mi è sfuggito qualcosa. Non lo sto pigliando adesso, me lo prenderò in seguito, ma non piglio quello lì, mi piglio quello turbo, quello bello, quello vale molto di più. Il problema è che devi trovare la persona giusta su internet, perché a volte ci sono candelabri per dire, che non funzionano per niente, tutto lì. Infatti, Gio Maria deve darmi garantito, capito? Questa è la prova che vuoi, ma il prezzo suo è quello, poi aspetta Gio Maria se ti vuole fare uno sconto. Sì. No, non mi interessa niente. Ho già avuto, basta, avanza. Adesso, a che ti ha venduto un solo? Sono a posto io, grazie a Dio. Mi sono fatto lo sgobbo. Per quello che lavoro che ho fatto, quindi sono tranquillo, così faccio. D'ora in poi, quando trovo un apparato che è a poco prezzo, faccio come gli altri. Lo sistemo, lo garantisco, non si è lamentato, quindi a un certo punto mi faccio lo sgoppo. Bravo, bella buono. Beh, già lo credo, se vuoi con 20 euro e cose del genere, a un certo punto cosa faccio? Lo tengo a casa, no? La piglia in culo. Ma Gio Maria. Eia! Ma, io già vicino. pezzo era perfetto a fare il scherzo e poteva prendere un chiudi per fuori. Vabbè. L'hai preso, l'hai venduto, io pensavo che te la dessi ancora, Antone. No, no, no. Ho fatto il lavoro ieri notte. Cambiati i trimmer perché c'erano uno di quegli apparecchi uguali, e che altro, sono uguali, uguali, ma comunque sia, i trimmer li montava nuovi, nuovi, hai capito? Li ho cambiati tutti ed è perfetto, esce di audio, di trasmissione, quindi ci va tutto, perfetto. Stamattina ho consegnato, non l'ha provata a casa, non l'ho portato via, mi ha detto, ma veramente dice, perfetto mi ha detto, l'ho portato via, quale problema? Babbo, Tore! Bello Giammarì, dimmi, dimmi! No, io riprendo, che a Tore non interessa, non ci che cambiamo discorso allora. Andave, ciambemmo! Come voi? Stavo dicendo, pigliati quello che è omologato che c'è, che è bello veramente, totale. Ehi, ma prendo più avanti, lasciami entrare i soldi prima. Ah, beh. Bene, veda, bene, veda, vai lui. Ah, io vai in banca e non fa ruddicchio. Se prima mi dassi baga tutte le cose che faccio da pagarsi, mi ne avanza, può darsi buio. Devo mangiare pure, mi. Che tu pure mangi? No, venga a casa tua a mangiare. Da, Torello, vai a mangiare. Aspetta, audurai-mi. Sto riposito. Ui. Ma, la ragione. Dai, infatti. Io ripeto, ce l'ho, se no me l'avrei preso, quella, poi è bello perché è tutto a colori, cazzo, è bello quello lì, piccolino, anche in macchina si può mettere, anche a tracollo come il disgraziato si può mettere, a tracollo. Giomari, cazzo, se buon a tracollo, poi faccio così, se andava via, c'è il rischio che ti stranguleggi il burro. Ah, così è. E posso fare, posso la cambietta, la bicicletta, mettere in bocca la bicicletta. Mettere in cantina, aspetta che mi hanno chiamato 10 minuti. Mi sa che voglio un altro apparato, aspetta un attimino. Cosa ha detto? Non ho capito. Aspetta un attimino che non ci compreso altro. Aspetta un attimo, mi hanno chiamato al telefono, forse qualcuno vuole qualche altro apparato, ho detto. 2 minuti. Ah, e fai con comodo, altro è. Sai con comodo, mi raccomando, Sì, meglio avere 20 in più che avere 20 in meno, che va quello. Almeno sono tranquillo. Aspetta 2 minuti. Mi apriate così da, come fanno tutti, da internet. Li prendono, li sistemano e poi li vendono. Oh no! Non ci avevi anche con le linte che. Linte che. Boh. Quello che avevo fatto io, ancora ce l'ha. Luca, vai, sparito e to. Sicuramente ho fatto cosa vuoi mangiare. Eia. Luca! Ecco gli stavo dicendo, mi metto la gabbietta, mi faccio la gabbietta adatta e mi metto un portatile nel manubrio che mi metto tu. Carlo, mi posso passeggiare per l'attacco. Tranquillo, ho l'assistito con l'Ener. Non mi hanno risposto. PMR, io voglio bisabbi PMR, per carità, no, no. Portatile, basta, la 27, boh. Portate la 27 voi. E come mai sei arrivato così in basso? No, ho capito. Ho detto, voi portate sulla 27, a posto del PMR. Ma il PMR, che è? Anche il PMR, se non fai macurare per cosa non bocca fa. Ah, ma che 27, che ancora ogni tanto, Se voi c'è un regalo uno, mi portate sulla 27, tanto ce l'ho qua buttato, qui. Dopodiché. Tore! Ehi a Giammarì, ma chi già ancora in campagna va a sì, oggi che no, penso che domani in campagna per lei. Vado 30 euro alla cosa, alla. Come si chiama? Alla. che c'è da fare, come ti si chiama? Non me la metto più. La zero. 30 la zero. Allora lì non è tocca, tranquillo allora. Sente solo la musichetta sul nairo e tirano avanti, va bene. Faccio. Se ne entra 30 anche per salzi pesci. Lo credo bene, ma con freddo di essa. Così che. Vabbè. Avete travagliato perché bisogna lavorare e lì si può lavorare anche se sto piovendo pure. Già coperto. Luca! Ah, come direi che sei giù, ti servizio. Certo che andiamo. Meno male sto, Indore, se devo fare la sabata bassi, lui vorrebbe una cosa verda. Infatti, se non si piace la cosa verda, non vogliamo più. Allora, la cosa fea, cosa rifebbo? Ma passiamo un dia la cosa fea. Per carità, avanti, ciucu ciucu. Aspettate se. Allora. Antone! Mi vedo se avevo due qualche altra cosa. Forse era telefono. Certo che andiamo, bobo. A quali giorno faccio così? A telefono! No, a telefono no. A telefono sono! Bobo. Allo? Attento il bello! Ah! Chi c'è stato da Gabicciuri, amici, per fare di retto casa? Magari non è fare di Gabicciuri. Allora, se c'è stato da fare un trinzio di fascette, cazzo. Sì, cazzo, andiamo. Ah, ma vi fa la più, Dio, va dritto che fura. Sì. Allora, Luque? Cupri, oui, a pigliare la dita. Ma... Ma deve darsi il maschegheni. Infatti, a capaema. Senta Reni, a tre mattinetti. Ora giù si incande a muovere. Allora, ah, sole. Ma questo si è acciappato. Come hai detto? Ho ragione io, cazzo, la fare la mazzata. Ho picciato il gruppo, non ho picciato di niente. Infatti. Tutti ci sono la segnala giura. Cazzo. La questione seria, La questione seria, c'è solo, cazzo. Ma è meglio solo che mi ha accompagnato. Oh, vabbè, ma le compagnie no, non esistono più, Prima esistia, vanno che ci sono più mari. Allora sono tutti bravi. Ah, che tutti pensano che siamo tutti mullenni e cose, invece vabbè dai in Alta Italia, vedi. In Italia, tutti a Roma specialmente. Giri canali a ciappiaghiti, giri a ciappiaghiti a ciappiaghiti. Ah, che a Roma, vedi so. Ah, sta venendo un bel, vedi so. Vado su, mi posso installare nel computer e li ascolto anche io, va. Tanto cerchi la pagina e si apre la pagina e poi te lo cerchi in USB. Ma mi sono gappato io, mi sono rubato un veneno, sono gappato. Bisogna, lo vedete vedere prima per ricevere, se non lo vorrei. Ma tu metti nella ricerca, metti Roma 2. SDR Roma 2 SDR e poi metti quello solo e ti appare la pagina. Ah, così fai Roma 2 SDR. Vabbè, vuol dire che proverò là. Provami. Aspetta che l'accendo, allora vediamo un po' là. Dice che stamattina non ho preso una casa da morto, a quanto sembra centro storico, lì a Piandanna. E cosa ne penso? La casa da morto da Carlo Fulbe. Ma capitate se ne so allora, dici. Catta, ma con un morto dentro? Sì, allora, cazzo vivo secondo te, col morto dentro. Catta, deve lasciare vedere così, tutti i pesci l'abbiamo fatto pagare, dici. Ma è una cosa allucinante. Di tutto si vede, catta, questo periodo. Ah, cazzo, la pigiata, la cazzo da morto. Sì, si cazzo, la cazzo da morto, con un morto dentro. coso, in pian d'anna. Non si sente che è uscita dalla macchina. Anche non più vuole andare. Capi, se non più vuole andare ancora, non ci chiede chi ne farà dalla macchina. Ui, ui, ui, la famiglia. Beh, ti deve nascere lì. Ma la famiglia, chi ci deve passare dalle indipendenti di dipendenti chi? A pezzini della caccia, un dico, non l'ha assicurata me in macchina. Ma adesso la c'è, se abbiamo un cofano, se ci dà fura. Non è da cadere. All'aria aperta vuoi andare. Infatti, certo, ci verrà la cosa da lì tu. Sotto le macchine. Ui, ui. Aspetta che accendo. Sono qua. E lui? Certo, un'ora già a mente di... non ti sei acciarato. Anche più bene non mi sono acciarato. Se mi scuola il telefono io mica non posso aspettare che finisca il discorso pure. Sfrughi se è bella. Che faccio da la F e quindi. Sì, ve lo dico. Oh, Luca, mi bicicletta elettrica, 120 euro. Antonello, sì. No, a me mi serve la moto elettrica, UFO, si chiama UFO. Moto elettrica senza la bellezza di assicurazione, bollo e tantomeno di patentino. Voi altro? Ce l'hanno voi? Ce l'hanno, mi sembra costa 8.000 euro se non mi ricordo male. Allora tu vuoi troppo voi? Sì, troppo, bisogna portare a me, c'è io quei soldi. Bisogna portare a me. Me la prendo, almeno per i miei soldi, cioè, fatti i conti, se ha patentino, assicurazione per un anno, cosa vuoi dire? A me i miei soldi. E in di lavarsi? In garage, c'ho il garage, c'ho il cortile, io la roba qua. E andate allora. Il problema è che devo telefonare al PCS, a vedere chi è l'importatore che c'è a Cagliari, hai capito? Portatore che c'è a Cagliari? Sembra che sia coso o... Non lo so, c'è anche c'è il bottone anche a tre ruote addirittura, non so di essere a due, lo scooter a tre ruote, ma anche la marcia indietro addirittura, non c'è bisogno né di targa né nulla, quindi esce in giro, come con le macchinette, queste possono essere per gli handicappati, sale qua, se ne va in giro, la mattina, la sera, chi cazzo vuoi che ti va a fare ballo? Quando sei cotto, poi ti fanno la multa, domani. Sì, vabbè. A me, dici, da spendere così tanto, non me la fotti lui. La gente che se la compra, quel tipo di moto, te lo dico io, ma un bel gente, quando non c'è patente, tu vedi la scena. Lo so. Per quelli che non hanno patente va già va bene. Non paghi né assicurazione, né bollo, né patentino. Quindi secondo te, se ne vai in giro, fai quello che devi fare, per dire, e sei a posto. Chi sugi? Chi andrà a vedere? E poi vai in video urbano e dici, cosa vuoi da me? Vai, mezzo candente, vai, girami le balle. Tu subito, maleducato. E così rispondi. E cosa vuoi da me? La macchina elettrica. Vai e rivolgiti alla vita, vai. Ciao, arrivederci, me ne sto andando. Sì, vabbè, certo. Ciucucciu. Perché come fa Antonio, ciucucciu? Cosa ne so io? Infatti c'ho un nipote che si gira a me le balle stasera, mamma mia. Che palle, ragazzi. Ah, sei una propagazione. Ma se ne sente? Non ne sento io. Perché non sei basso, sì. Fortissimo. A te arrivo fortissimo. A 45. Ma senti come avevo 45 anni, io, tu. Secondo te, oh. Cosa me ne faccio? Me ne faccio a me le cose 5.000 Non c'ho antenna, non c'ho niente, dove vado? Col tram vado. Canale 45, sei a Giammarì. No, per nessuno a 145. A canale 45. Ah? A canale 45. 27 Giammarì, vai sulla 27. Ah. 11 EMI, guarda che 11. E USB. Oh, canale 45 stavo dicendo tu. Io pensavo che era di meno. Ma cosa non ci lascia qua? Che è successo? Ma sono proprio... Ma arrivi tu, aspetta. 27 4 65. Avanza, ma non hai sbagliato. Adesso è andato. Luca, ciao Maria. Sto cercando, dai. 711 USB e poi vai a 465. 475. 27, 465. Ho capito. Luca. Ehi a Luca. Io vado in poche cose, perché... quella moletta si è fatto vedere il cespugliatore. Oh, cosa si è fatto? Quella moletta si è fatto vedere il cespugliatore. Certo. andiamo. No, il fatto è che devi avere verga di ferro, poi le devi saldare insieme, costruire tutta la il manico, dai, diciamo così, fargli l'attacco per la moletta e tutto quanto. Boh, e poi cosa può durare una moletta tra attendere come te dice spogliatore? Sì, ma io sono sabbiato cosa va, allora se puoi la pintassi. Che Marì! Hai capito, Otto? Cosa? Uno però, 27, 45, 75. Non c'è nessuno. 65. 4. 6, 5, non 7, 5. 6, 5. Ehi. Eia, sono qua. Ale. E quell'altro che col motorino del decespugliatore praticamente ha tolto il pezzo di sotto dove attacchi i fili, no? Per tagliare l'erba. E ci ha messo un'elica piccolina e si è fatto il motore per il gommoncino o per la canoa. Ad Andrea Carigheggi arriva. Come? No, sotto, ha tolto l'affarino dove metti il filo per tagliare l'erba, no? E ci ha messo un'elica piccolina, e l'acqua che ha quasi uscita, no? Non è che il raffreddamento come che il motore della bacca, no? E vabbè, ma non va bene così. Mi fa deridissimo. Tu guarda il video, aspetta, non va bene, la vedi la canoa andendo. Perché non li hai visti in paesi dove l'acqua è bassa del fiume che usano quei motori lunghi? Una cosa del genere, non ti credi siamo più di questa. Però se è riuscito a farlo bene, posso sapere che vada. Oh, va, tranquillo, va. Di lusso. Devi solo poi sigillare bene il pezzo di sotto e basta, niente di più. Boh. E devi trovare giustamente un'elica a fargli l'attacco, sai? Ma un'elica adatta devi acciappare, piccola. Piccola allora. Ma un'elica... No, cioè, ci sono piccoline. Tipo quelle delle acqua scuse, capito? La voglia si acciappa nei ghizzi. E gliela devi adattare. Teia, la devi adattare, no? Ma mi hanno fatto parecchie, addirittura dura... Quella cosa mi ha fatto la molesta. Vabbè, che si sia pintato così a costruirselo. Ma quello del coso non ti crede che ci voglia molto lavoro. Devi solo togliere il pezzo di sotto e metterci l'elica. Boh, è fatto molto. La fa così. È che se il problema qua è che se ti beccano sono guai, sono, perché sono motori che vanno collaudati, vanno, capito, dopo una sera a norma. Mi viene una, va così, mi le tenendo in mano cosa devo dei cespugliatori, ho posto un'elica piccolina e si sta spingendo il canottino. Ah, fatto prima gata a passeggiare così in regola, a comprare un motore elettrico per coso, per gomoncini. La materia è grossa, primo che la batteria dura poco. La batteria dura poco. No, elettrico ci verrà nulla. E qua c'è un bel denaro. Invece fuori autorizzato l'accetta 50 euro. Capito? Non sarà territorio del 38 e mettere l'elettrica. Anche perché quei motori girano comunque, caspita. Ah, io li ho visti anche in mare, li ho visti. Che con un gommoncino piccolino con motore elettrico, c'è una batteria a 12 volt grossa di macchina, a voglia verani 3 euro verani dici, girendo. Ma via la batteria grossa di macchina, quello sì, perché con la sua batteria non fai niente. No, vabbè, con il suo motore invece lui proprio che andare a fare un pieno di miscela, ne metti uno a 4 tempi o a 2 tempi o a voglia di girare. Il casino è quello, che se ti beccano non si può, quello è. Se lo beccano c'è la contravvenzione e più c'è il ritiro anche di quello, il sequestro. Vabbè, infatti. Tutta a cura. Però dico, adesso le rompiamo il questo, ecco là le risponde, l'ho costruito apposta. E ci rabbiglia. Anche se è più bella da bisogno i buliziotti che se lo fanno a cosa se rubiscano. Se lo tratta ne va a tagliare IVA. Lui, un altro l'ha fatto, quello della batteria si l'ha fatta addirittura. Tutto inventa. Contrappa la batteria, sempre il pezzo del... ha tolto praticamente il motore del decespugliatore, sotto ci ha messo l'elica e sopra ci ha collegato il trappola batteria e sta spingendo la canoa. Se ne vede tutti i colori, se ne vedono. Fai prima pigliati un motorino che piglia la contravvenzione. Beh sì. Vedi, per esempio l'acqua scooter che ho io, dietro sia elettrico che a benzina, e quelli sono a norma, capito? Sono a norma e non fai altro che tenerlo al gommone, se ti buoni sopra il gommone, lo tieni e acceleri e vai. Per quello non ci vuole niente. Ma per questi autocostruiti così non lo so. No, non si può, no. C'era questo qua, ce n'era uno che era Porto 3, ce lo stava provando. Ha giunto la capitaneria, ne sono più maddennato, quando ha giunto il rientro, ne sono più maddennato. Ecco, trovo anche otra menzione, pensa che è più aggiunto. Perché comunque ci vuole anche l'assicurazione al motore. Quello io ho pagato, mi pare, 400 euro l'avevo pagato, il gommoncino da 3 metri col motore, 400 euro l'avevo pagato, e quelli rossi era il gommoncino, ed era quei motori a miscela, bello, andava alla grande, andava. Che fine ha fatto? Ho venduto della? Poi me l'avevo venduto perché non avevo il posto dove tenerlo, capito? Me lo stava tenendo mia cugina, ma era un casino, poi ogni volta magari che volevo uscire o che me ne andavo con altri parenti, allora dovevo andare a casa sua a prendere il gommone, il motore, capito? Perché il gommone lo mettevo sull'imperiale e dentro poi ci buttavo tutto il resto della roba, no? Il motore lo mettevo in cofano, però ripeto, non avevo il posto dove tenerlo. Ogni qualvolta dovevo rompere le scatole alla mia cugina, andare lì a casa sua, a caricarmelo, capito? Perché lo tenevo già buccio. Così è brutto. No, io... Quindi adesso questo mese compro i razzi, sempre che ce li abbia, e più devo fargli l'assicurazione anche. Quella ci vuole. Io ho pagato 70 euro quando l'avevo fatto. A voi la ci dovrà fare due buffi, ci sono tre voci in bar, in campeggio. Oh, questo 57 euro, l'assicurazione, e più 30 euro assicurazione del carrello. Già che lo usi poi, non è che, giustamente, come periodo magari. No, no, quest'anno lo uso, poi prossimo anno lo metto in vendita, che mi migliora, se lo ricordo bene, se lo vuoi trattare. E beh, te lo vendi? Al prossimo, a fine stagione, no, a fine anno te lo vendo, non compreso. Perché quest'estate lo tieni per tua figlia. E allora, me l'ha detto di non venderlo, che quest'estate agito io, ma via della macchina a noleggio con il gancio traino, che con la mia non è meglio. Ah, ha detto che a luglio se ne viene, se mi dà la macchina a noleggio, ha detto, boh, fa trabbia col gancio traino, perché non mi hai fatto vendere un gommone, se vuoi attenirlo, è così. Beh, certo, giustamente. È bello, se però se non lo usi, se all'aperto è un casino. Ah, che in garage è chiuso. È in garage. Solo che non lo usi, quello, non hai, che non hai tempo per altri motivi, magari lo usi quasi niente. No, adesso la domenica, il sabato vado a... mi porto il cane dove c'è l'altro cane a trovarlo e poi la domenica usciamo. Sempre se è buono. Vabbè, adesso mi ammazzo ancora. E a giugno c'è la domenica, si può uscire a fare calamite. Calamite? Noi usciamo a fare calamite. Io già ce l'ho una veglia. Non calamite, no, palamite. Ne ho preso, sì. Quelli basta che butti, ti rimpressa e vedi come ti si agganciano. Sì, per me sì. Si vede nel canovero... coso, già si vedono, sì. Certo, certamente. La resta di gamper, è tutto squadrato. E dove? In televisione? No, in coso, in subito.it. Sta squadrato. E qual è tu? Gamper per le vacanze, 110 euro. No, io sei a noleggio. Noleggio, 110 euro al giorno. Però no, ne vogliono 1000 o 2000 di caparra. Intendi in oggi. Motore Mercury 4070 Pro 5400. Ma a casa li stai guardando? No, in tutta Italia. Ah, no, io sono a Sassari. C'è nel camper a noleggio, camper massardato, 7008, un Ducato, camper a Nolo, Sassari, camper tre posti, 6500 euro, rulotto tipo camper 9950, camper Adria 29.900. Aspetta un attimino, Allora, Sassari mettiamo, no? Metti, scrivi camper, poi va, metti in Sassari. 24.000, 14.000, oh yeah, camper a noleggio 50 euro. E non me ne dai. C'è tanto in alto, è pieno. Scrivi dove c'è scritto cosa cerchi, scrivi camper, poi fai tutte le categorie e Sassari. Grazie, Venezia, di tutti i luoghi mi ricordate. Perché tu sei in tutta Italia, devi scrivere Sassari. Ho scritto Sassari, non me ne dà. Ah, non te ne dà. Io c'ho, dove c'è scritto cosa cerchi, c'ho camper. In quale categoria, tutte le categorie, dove Sassari. Ma poi scrivi anche comune se vuoi scrivere. Vendo Piazzola e Simannu. Forza Ciri, forza. Ah, va, Visemmo. Ecco, hai visto. Sono sbatta, però non riesco all'audio, non mi riesce l'audio. E dove? Aspetta solo il QRM e basta. Aspetta che te lo dico io subito, aspetta. Non sente nessuno. questo qua c'era una propagazione allucinante. Amari, 27, 4 e 25 vai. 27, 4 e 25? Sì, che ce ne sono? 27, 4 e 25, vabbè, aspetta. Sì, trovato? Che cosa? No, l'ho mandata a Gio Maria, adesso 27, 4 e 25. Vabbè, ma vai in su. Sì, li sto ascoltando io. Ma dove? Sul computer? Ehi! Ma sul computer, ma non sulla radio. Torrettore. No, sulla radio non ci sono, non ce l'ho neanche io qua. Quello là. Ma Gio Maria sta cercando nella radio. No, nel computer. Il computer! Ciao Mai! Aspetta, sto cercando la frequenza che adesso c'ho 27.394, sto cercando, dai, la frequenza giusta. Ma la frequenza, ma nel computer! Ehi! Prendi ancora, con la freccia di mezzo, dove ci sono due freccette, con quelle vai! Con quelle sto andando, quelli di su! C'è quello davanti, quello a destra, a sinistra, capito? Già lo so. Luca, camper 8.000 euro, camper Ford Transit munito di tutti i comfort, con inverter 4.000, W 8.000. Adesso mi vengono tutti alti come prezzo. Ma ce n'è anche uno 4.500. Ford lo stesso, 20.000, 14.000, lo tipo camper. Sì, già si sento. Meno male. Ah, si sentono? Meno male. E beh, ci ho mai trovato gli altri. Guarda, è costruito anche la tastiera, mi direttamente. Ma non c'è nessuno, dai. Aspetta, no, guarda, io ho chiuso il refrigerio qua. La scuola ce l'ha, guarda. Che brutto. Io sono 27, 400, anzi 27, 420, 25 adesso. E anche ho filtro a 4 kg. Penso che non ci è arrivato ancora Gio Maria. Vediamo un po' se c'è qualcun altro. Trovato. Sono? Sì, che ci sono, sì. Perché li sento da qua io. Senti. Sì, già, si sente. Aspetta. È inutile, ragazzi. Bisogna imparare. Sì. Infatti. Non mi avrò mai toccato. Max pensavo io. Me l'aveva detto Luca, però non mi sono mai messo a dire verità. Ho visto, già li ho trovati, adesso già so già come tutti i movimenti, capito? Se non fai anche 144, vai a 145, io l'ho trovato a 145, 600 e con la banda FM. Ormai già conosco già la pagina, ok, vabbè, è inutile. Bisogna fare sempre, c'è poco da fare, vabbè. Non mi sono mai messo a dire la verità, Adesso proprio mi sa come ho fatto a chiedere tutti, manca pensavi. Sì, vabbè, ti sei disegno la sacciappa. Poi ho le casse ferri amplificate e li sento bene, li sento perfettamente. E meglio ancora, anch'io ce li ho le casse. C'è anche quelle amplificate. Sono amplificate, ma sembra che sono 8 watt quelle che ho io. No, io ho il coso grande, ho con una cassa grande e le due casse piccoline. Va bene sto. Ma chi sei entrato? Ancora no. Ancora non deve essere entrato. Ma allora che entri, ma chi gioca? Chi? Un attimo. E sono qua. Allora? E io Gio Marino. È bello, dov'è? A te. ci dovrebbe essere, se no si è allontanato. A te, tuo bello. E lui? Ah, sì, sì. Ebbè, fruggendo su internet. Ah. Fruggendo, sì, così. C'è tanta di quella roba, non l'avevo l'idea, ma tanta è. Signore! E io, Gianmarino? Ho sentito qualcuno stamattina, dice, ma tutti morti, siete. E si è ritirato. Sì, allora è provato il muso. A Gattubari. E poi si è ritirato. Anche se ha fatto la battuta così, vuol dire che è duro il muso. Cazzo, è vero, cazzo, che cosa. Se è muso. O si è resistente. Ehi, sì. Ah, la passaggiola si è salata al computer. Certo che andiamo. E oggi si sta vedendo si deve scuttare a capo sul computer. Certo. Ah, ma di razza non si fa vedere. Ah? Di razza non si fa vedere. Ebbene, che cosa sei? Certo, non l'abbiamo compresa, no. Vabbè, lo ho fatto il nome io. E va bene. Per carità. A Gesù su che sei, da ragazza tu. Ma cosa vedeva? Non lo so se sta piovendo. Prova prima ancora a cavarti la mano a finire. Ma vengo una serranda che è infusa, ma non lo so cosa offendeva. Ma chi? A me la baracqua. Se che andiamo. Non cadere per travere il bacchiglio, pure la baracqua è. Il bacchiglio è appena rientrato, sarà una mezz'oretta. Abbassa la giacca, là. Adesso si è rinfrescato, da voi a estro. Io che se no, peggio bello. A voi prima si è travagliato con un baraccabisco. Certo che andiamo bene, andiamo. Bacchiglio. La zappa per la vai, bacchiglio, a stalla, quella terra infusa. Sento, un ghiaccio, cosa fai in campagna? Cosa fai con diceva in campagna? Si travaglia sempre a chi fa ricerca, si chiude dritto e travaglia dritto, capito? Non si che è tranquillo, ma con freddo che... Vabbè, Eia. A chi dare faletti? Lei va da chi c'è un dubbio della scuffata. Mi ha telefonato ieri. Ma gliel'abbiamo detto che saliamo quando fa bel tempo, anche perché per l'antenna e tutto quanto, no? Infatti, allora si può, finalmente forse l'impegno si può fare. Così che, infatti, bisogna controllarla, non si deve farà. Ma pensa che era sigillata bene, là. È sigillato bene, sì, non so se ricordi, non so quanto. Bisogna controllare, dai. Io ho pensato che il calore era troppo, capito? Che il calore era troppo e ha sciolto leggermente quella roba che abbiamo fatto e allora penetra l'acqua del chi tocca il tubo, scende e magari sarà quell'acqua. Non lo so perché quel silicone è refrattario, è fatto apposta, fino a 1300 gradi nel bagno, che sembra molto strano. Proviamo a aprire, a controllare quando è il momento. Io ho pensato a quello, poi bisogna controllare, era una giornata bella, gliela controlliamo e vediamo un po'. Bene mela. Signore! Ehi, Gianmarì, dimmi. Canta, abbiamo bisogno di aspettare che si chiamino, no? Canta! Ehi, canto la bella libertà, ti piace? Aspetta, a te bisogna fare la domanda a Rai, ti portiamo alla Rai. Canta, a scorso a Castrocaro. Esagerato, sì, piatta. Ma c'ha più? Ah, oh, senti tu, che voce che c'ha tu. A Castrocaro devo mandarmi, sole, perché lì se sgarri ti cazzano. No, a fare fatto, in modo che accelo io, se andiamo subito, ecco, finiamo se, e ti porto subito su. Ah, sì, su, sì. Siamo a posto. No, palmente, invece vediamo il televisore. Argomenti no, il Giulia. Ah, sì, sa che bozze che ha fatto. Non credevo, E te, mi, se niente nega con un cantenne. Così è Luca. E allora, se vinci, ti salvi, se no... Come ti vedi, non so che raggiura. Mi sa che vi fate un pensierino anche su E a quale? 8000 Ford Transit. E lui? Pensa, dai. Ti raccomando, E allora? Ma dai, 6000 a me e ti do due roulotte e una piazzola. Ehi, Giulia. Sai quanto devi si abbigliare? 30.000 euro. Perché? Ma la capettura fatta per la vita, hai il rullotto lui. Sono pronto a viaggiare. Ah, sì, Certamente da Davoni sono a viaggiare. E con un garattese buro. E con un garattese buro. Questo guarda che è basso, è comunque. E andate con questo camper, posteggi lì, a fine stagione di Trubusci. E allora? Vediamo cosa c'è fuori, cosa mi dice la signora. E allora, questo camper. Antone! Attizio! E chi è quel cucù? Guarda che non stai uscendo. Signor Bacchi, tu sei. Se sei tu non stai uscendo, Basso, ma già sta uscendo. Oh, ma cosa intendo io? Si sente un'alternata, Bacchi. Bacchi, già sotto la serra, zappelli. Ma un microfono che non scendi. Bacchi, capa di la sotto la serra, un microfono. Basso sì! Ma col cavo solo stai parlando? Stai uscendo, basso! Ma chi? Devo manco ricezione qua! Deve essere si rinfusa l'antenna! Ah, beh, ma le trappole in mezzo a leva oggi, gatta, dove ci mai? Almeno! Stavo fare il fuoco! Luca! E lui? Sta andando a prendere la signora! Vengo subito! Eia! D'accordo! Chiama lì! Vamos a ver Italia! Attenzione, signor Bacchini, vamos a ver se mi scucci! Cambia passo! Passo e cambio, buona serata! Buona notte! Buona mattinata, buona mattinata! Avanti con la buona salva da Bacchizio del grande insegnante. Ah, già dai cura, hai parlato subito in spagnolo, Bacchizio. Buonasera, signor Bacchizio. Asciuttato dai sapere che si vede che l'ha lasciato in mezzo a leva oggi. Ero fuori a sci. No, non fuori a sci. Capito. La tira sotto. E si mette la minore del veloce l'ha capottata, non ha altro posto a posto, la mandronia. Ah, e te detto, c'ho ragione che la mandronia si era attaccata a Bacchizio. Ore! Ore, si è mangiato lo solito. Per carità, ma la mamma ha chiamato un gattone, il Parigi, ma se forse sarà andato a prendere la 50, sei bello della fedoce, avanti. Ma è andato a prendere la giamuzzere. Ah, c'ho ragione io, gatta. Ma chi è andato a prendere la metà? Sì. E beh. Infuso di sei oggi, Bacchi? No, nulla, infuso. Mentre la sera la prima fare era. Beh, non male, lui ha pensato male, e Bacchi diceva che tutti fusa, ma non risponde a che sta succedendo in casa, invece no. Forse hai ragione, Bacchi, Chi era quello che poco fa ha detto che museo? Chi era? Chi era? Ci sono io, Luca. Ah, il bello, non Luca, non c'è Luca, il bello c'è. Ettore, non c'era altro nessuno. Ah, lo so, però salutiamo il bello, buonasera anche a noi. Ciao Bacchi, buonasera. Ciao, via. Come mai sei tutto arrugito? Io? Perché bastano un po' qua. Perché non mi senti? Oh, voglio che sei tutto a zero qua, Bacchi. Microfono a uno, ma chi ha uno e mezzo, due, tu. Va bene. Io qui darei che facendo tutto pompato stasera. Infatti ha messo un palazzino all'acqua. E si è pompato, così. Allora, tipo il palazzino di Giamoria va acqua qua. Ah, niente Giamoria. Casello. Sentito Battisio. No, ero un po' disattento, chiedo scusa a Bacchi. Avanti. Adesso, perché il palazzino tuo funziona d'acqua. Ah, così è. Beh, sta per. Oggi mi sento più importante. Se avesse la pioggia l'ha fatto bene, l'ha messo fuori dal terrazzino. Allora adesso è per quello che sta andando bene. Ehi. È così. Oggi piove, domani acqua. Domani ce n'è ancora, fino a domenica. Ma domani non fa acqua, fa monetino da tantissimo. Io ho sentito questo così, Anzi, domani forse più forte pure. Allegria, ragazzi. Ma manco lo vedremo più dalla terra. Infatti. Io l'altro giorno ho innaffiato Bacchi. Anche io ho innaffiato tutto. Avanti io ho innaffiato tutto. E questo che mi pareva. Vabbè. Non mi fa male, va. Ne ha bisogno, se la assorbe subito e in un paio d'ore se la assorbe tutta. La terra è solo che non si va in su, se non scende giù. Ma non la scende, se ne va giù. È bella l'isola, lunga. Già si voleva, stava aspettando la pioggia, l'abbiamo arrivata. Ma qua ne ha fatto poco, ha fatto poco da un ristoro in su. Quella zona qua ne ha fatto molto, Cagliari, cazzo, tutto il gradiente, cazzo, il salagato. Sì, sta piovendo oggi rosso. Io, con noi non ci possiamo lamentare, piano piano, ma sempre sto andando. Questa fa più bene di tutti, perché piano piano si assorbe lentamente, quando la fa troppo corre e non si assorbe. Al danno e basta. Avanti. Allora, ma cosa la mette a fare l'acqua da qui, poi se la assorbe la terra, cosa vuoi fare? Anche noi beviamo, e la terra beve lo stesso. Cioè, se più l'acqua che beve, che consuma, ragazza, che frutti che ci dà. E i bacini, a parte che sono tutti pieni, strapieni. Cazzo qua, cazzo, li sono tutti vuoti. Perché sono in manutenzione. di solito fanno così, Quando c'è troppo la buttano. Da voi siamo gente da noi, vero Bacchi? Ma sai che Sassari le ha messo in bottiglia il sigapo, ma tutta imbottigliata l'acqua. Per carità, vero, qua non è su, la parte carica sta facendo parecchio, e Bacchini l'hanno fatto vedere, ragazzi, mentre qua sono vuoti ancora, già era entrato un po', ma no, poca roba, capisci, deve fare qua per riempire come quelli di Cagliari, Ma noi la sfruttiamo l'acqua, Cagliari invece la recupera, noi la sfruttiamo, noi è arrivata a quel livello, io ho avuto a mare, se no non resta. Speriamo bene, speriamo bene. che ne faccia ancora, e per cui che serve, serve, dopo non ne fa più, no, adesso non ne fa più, allora stiamo male quando fa caldo. Oh, yeah. Vabbè, riprendi lui, aspetta un po', dai. Ma che così è? Dovrebbero fare degli altri bacini di contenimento. Vabbè, mi assento, Bacchi. A dopo. Dai, se voglio entrare qualcuno. Ok. Bacchi. Dai, sto chiudendo questa gente. Dai, ci sentiamo domani eventualmente. Dai, buon proseguimento. Salutone anche in casa. Ciao, Luci. Ci sentiamo. Ciao. Ciao.